Con Elisa Schermarini, una delle organizzatrici di Roma Non Si Ferma, a Roma al Parco del Caravaggio dal 7 al 23 giugno 2019. Elisa, ben trovata. Ci Buongiorno, grazie racconti di questa festa? mille. Nasce all'interno del percorso di Sei una di noi, lanciato lo scorso autunno, con un appello che ha coinvolto, ha raggiunto centinaia di persone, possiamo dire, nella battaglia contro le mafie, le povertà, le disuguaglianze, e per dare una visione di città diversa. Poi siamo passati per un'assemblea pubblica in Campidoglio e ora questa festa. Saranno 17 giorni pieni di dibattiti, musica, spettacoli, presentazioni di libri, proiezioni di documentari e chi più ne ha più ne metta, insomma. Sono tante le sigle che organizzano, giusto? Sì, a partire dalla rete dei numeri pari, che coinvolge circa 80 realtà nel suo nodo romano, e altre 20 che nel corso dell'organizzazione si sono unite, quindi parliamo di circa 100 voci diverse che si uniscono per appunto costruire questa visione alternativa della città. Essendo anche presente la Casa Internazionale delle Donne, immagino che ci siano anche tematiche di genere. Assolutamente sì, sostanzialmente quello che si farà in questi 17 giorni con i dibattiti sarà andare a declinare le disuguaglianze in tutte le sue sfaccettature, quindi disuguaglianze di genere, di reddito, geografiche, economiche, ambientali e così via. Sì, diverse serate sono dedicate al tema delle disuguaglianze di genere. Come sarà strutturata una giornata tipo? Inizia per le 17 con una proiezione di un documentario piuttosto che una presentazione di un libro o di un dibattito culturale, per poi passare al dibattito serale alle 19 e dalle 22 in poi musica, insomma. Ci sarà anche la possibilità di mangiare e bere in un clima conviviale, quindi insomma. Ci sono diverse possibilità, ecco, ci saranno anche dibattiti che inizieranno alle 21 durante il weekend, avendo ormai assaporato queste prime giornate estive per dare la possibilità anche a chi ci permetterà una giornata di mare di tornare con calma. Penso ad esempio al dibattito di chiusura del 22 giugno con Luigi Ciotti, inizierà alle 21, piuttosto che quello con Maurizio Landini il 19, insomma, quindi abbiamo cercato di differenziare, ecco così. La struttura come è organizzata? Ci sono degli stand e un palco? Ci sarà un palco molto grande con, insomma, delle sedie e la possibilità di sedersi, un'area ristoro con un pub, ci sarà una galleria, ci piace chiamarla così, dove sarà possibile conoscere tutte le realtà associative coinvolte in questo percorso, ma dove saranno anche esposte delle mostre fotografiche, come per esempio quella di Tano D'Amico, o dove appunto si presenteranno libri e progetti. Ci racconti anche un po' il percorso che ha portato a questa festa, dicevi, sul tema delle disuguaglianze? Sì, esatto. Noi, come vi dicevo, abbiamo iniziato nello scorso autunno lanciando un appello appunto al monito Sei uno di noi, sei una di noi, un appello a livello personale per una città diversa. L'appello faceva più o meno così: sei una donna sfruttata per il tuo corpo, per il tuo lavoro, sei una di noi, sei un fioraio che si spacca la schiena ogni giorno per pochi spicci, sei uno di noi, sei un ragazzo che fa le consegne a domicilio pedalando per la città per altrettanti pochi spicci, sei uno di noi, e così via. E abbiamo raggiunto in questo modo, abbiamo raccolto circa 1.000 firme in pochi giorni e da lì abbiamo capito che non poteva essere un'iniziativa sposta, che non poteva finire lì. E quindi il 13 ottobre abbiamo dato vita a un'assemblea pubblica a Piazza Vittorio, coinvolgendo le realtà sociali impegnate su questi temi, come dicevo, a partire dalla rete dei numeri pari, ma anche sindacati, cooperative, parrocchie, i movimenti per il diritto all'abitare, i movimenti studenteschi, i centri antiviolenza, comitati di quartiere, scuole, chi più ne ha più ne metta. Proprio per allargare questo percorso già così inclusivo, il 1° dicembre abbiamo dato vita alla prima manifestazione organizzata a Roma sul tema delle disuguaglianze. Abbiamo sfilato in circa 10.000 per le strade della città e abbiamo in questo modo raggiunto, raccolto ancora nuova forza. Siamo arrivati al 20 febbraio con un'assemblea in Protomoteca, dal quale proprio abbiamo lanciato quella che poi inizierà venerdì, la festa di Roma Non Si Ferma. Eccoci. Quindi è un percorso che prevederà altre tappe oltre a questi giorni di festa al Parco del Caravaggio, immagino. Beh, sicuramente sì, perché poi come si potrà vedere sul sito, saiunadine.org, da tutto il programma, i dibattiti saranno proprio le vertenze che abbiamo portato avanti in città in questi mesi e che rilanceremo in autunno con tutte le loro novità e ulteriori difficoltà, ma che appunto segneranno sicuramente nuovi passaggi nei prossimi mesi. Per il programma nel dettaglio, il riferimento è quello che ci hai appena dato? Esatto, abbiamo sia il programma sul sito appunto www.61comenumerodinoi.org, ma anche sull'evento Facebook che potete trovare dall'omonima pagina Facebook, quindi Uno di Noi, e l'evento si chiama appunto Roma Non Si Ferma. All'interno del programma dettagliato, con i dibattiti, le presentazioni, la musica, siamo contentissimi di avere con noi anche Pino Marino, Enrico Capuano, che ci porterà un bellissimo spettacolo. Abbiamo Massimo D'Ambrosio, Gabriele Cohen con il suo trio, ma anche la Testaccio Kermes Orchestra, per esempio. E abbiamo deciso di chiudere la festa con una serata un po' particolare, invece della solita musica, chiuderemo con un quartetto di archi, di donne, che riarrangeranno musica moderna, contemporanea, con i loro magnifici strumenti. Quindi insomma, invitiamo tutti e tutte a festeggiare con noi il 23 sera al ritmo di questi archetti. Ricordiamo la festa Roma Non Si Ferma al Parco del Caravaggio dal 7 al 23 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Elisa Sermarini, una delle organizzatrici. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto.